tienamente, casce dato fai sonna. Guarda qua che sto giardina, sienta si è stisciura arancia, no profuma così fina, dinto cuore se ne va. Ci parta Dio, ta lontana da sto cuore, dalla terra dell'amore, tieno cuore non torna, ma non me la sa, non darme sto tormento. Tesoro te ne infunno, chi ha girato tutto mondo, non l'ha visto come ca. Guarda attorno a sti sirene, ca te guardano incantate, e te vanno tanto bene, te vuol essere vasà. Ci porta Dio, ta lontana da sto cuore, dalla terra dell'amore, tieno cuore non torna, ma non me la sa, non darmi sto tormento.